Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di quello che probabilmente è uno dei più gravi errori giudiziari degli ultimi anni, degli ultimi vent'anni. E la storia dei procedimenti penali è costellata da errori giudiziari che hanno fatto epoca, a cominciare dall'affaire Dreyfus, il caso di Alfred Dreyfus, il capitano alsaziano accusato alla fine dell'Ottocento di alto tradimento, oppure Rubin Carter, il pugile, ne abbiamo parlato anche noi, condannato a due ergastoli. Pensiamo a Sacco e Vanzetti, gli anarchici italiani giustiziati negli Stati Uniti negli anni 20, ma anche più recentemente a gente in Italia come Lelio Luttazzi, Enzo Tortora, Gigi Sabani, insomma casi di mala giustizia che hanno implicato ovviamente una serie di effetti collaterali gravissimi, perché un innocente in carcere significa tanto dolore, una famiglia distrutta, un colpevole impunito, e poi significa spese legali, tempo, sofferenza. Pensate che negli Stati Uniti è stato creato il Registro Nazionale degli Innocenti, che raccoglie casi di tutti quelli che sono stati condannati ingiustamente anche nel nostro paese. Ci sono diverse associazioni delle vittime di errori giudiziari. Bene, oggi noi vogliamo puntare il dito su uno di quei casi che ha tutte le caratteristiche dell'errore giudiziario e che ha visto anche mobilitarsi molti personaggi anche dello spettacolo. Mi vengono in mente Red Ronnie, Fiorello, Giovanotti, però si sono mossi legali conosciuti, criminologi di fama. È la storia che ha risvolti terribili, che coinvolge anche un delitto famoso, quello di Gianni Versace. Il protagonista di questa storia è un uomo che ancora oggi è detenuto in un carcere in Florida, sta scontando dal 2000 la massima pena detentiva, l'ergastolo. Il suo nome è Enrico Forti, detto Chicco, Chicco Forti, che è accusato di aver ucciso Dale Pike, figlio di un suo socio in affari, e Chicco Forti si è sempre dichiarato innocente. Hai ucciso tu Dale Pike? Assolutamente no. Hai commissionato il suo omicidio? Assolutamente no, non c'era motivo per me di togliere la vita al figlio di una persona che consideravo un amico. Sai chi ha ucciso Pike? Se lo sapessi non sarei qui. Perché hai mentito? Ho mentito perché loro mi hanno mentito. Mi hanno messo in una situazione di paura, in una situazione dove, senza l'appoggio di un avvocato, senza l'appoggio di un legale, dovevo dare una risposta che avrebbe potuto compromettere la mia vita. E cominciamo a conoscere Chicco Forti. La sua è stata una vita bella, ricca di avvenimenti diversi, piena. Tutto però sembra concorrere all'epilogo tragico che lo porta al carcere a vita. Lui nasce a Trento, 8 febbraio del 59. È un ragazzo sportivo, windsurf, vela, è un esperto sciatore, ama gli sport estremi, si trasferisce a Bologna e frequenta l'ISEF, l'Università dello Sport. È tra i primi al mondo a eseguire il looping, cioè il salto mortale all'indietro con una tavola da windsurf. Nel 90 vince il campionato italiano di vela su catamarano. È windsurf, è lo sport che lo appassiona di più, diventa un vero e proprio esperto, partecipa alla ideazione, allo sviluppo di materiali per tavole, scrive articoli, promuove eventi, viene invitato a diversi programmi televisivi, partecipa addirittura a Telemike, il famoso quiz di Mike Buongiorno, dove porta come materia proprio la storia del windsurf. 4 giugno 1990. Allora vediamo un po' come si chiama Sabrina. Questo signore si chiama Chicco Forti, viene da Trento e si presenta sulla storia del windsurf. La storia del windsurf. Vedete com'è bello abbronzato, lui è sempre in mezzo all'acqua. Cesare Cantagalli nella prova di salto. La risposta esatta. In tutto 86 milioni in gettoni d'oro. Nuovo campione Chicco Forti. Eh sì, vince 86 milioni di lire nel 1990, un bel gruzzoletto, e così cambia vita, apre una casa di produzione di video di sport estremi, la Hang Loose, va negli Stati Uniti, si trasferisce prima a San Francisco, poi a Miami. Nel 92 lui, che ha 33 anni, che è un bel ragazzo sportivo atletico, ha davanti a sé una vita che sembra meravigliosa, si diverte, intraprende la carriera di conduttore di programmi televisivi che parlano di sport estremi, e diventa filmmaker, produttore, fa il mediatore immobiliare, e anche dal punto di vista sentimentale la sua vita è un successo. Si innamora, sposa una modella, Heather Crane, e nel giro di pochi anni nascono tre figli, Francesco, Jenna e Savannah. A questo punto della storia arriva il primo colpo di scena, un evento che sembra non avere proprio nulla a che fare con lui. Il falco e il gabbiano. La meravigliosa vita di Chicco Forti, che vive con la bella moglie, con i tre figli, nel quartiere del G7 di William Island a Miami, viene improvvisamente cambiata da un colpo di scena che apparentemente poi non ha nulla a che fare con quella che sarà la sua vicenda. Perché il 15 luglio 1997 Gianni Versace viene assassinato davanti alla sua lussuosissima abitazione Villa Casuarina a Miami Beach. Hello, welcome back. These are pictures from Miami, where the fashion designer Gianni Versace has been shot dead outside his villa on the Ocean Drive. Questo era l'audio originale del primo TG americano che annuncia l'assassinio dello stilista Gianni Versace. Non è una rapina, lui viene assassinato a colpi di pistola sulle scale di casa, pare subito un omicidio passionale o al massimo il gesto di uno squilibrato. Un evento terribile, ha un'ecomediatica straordinaria, Versace è uno degli stilisti più famosi del mondo, inoltre essendo apertamente omosessuale si pensa a un omicidio legato alla sua sfera privata. E il guaio è che Miami è la meta turistica preferita della bella gente, la paura dell'amministrazione locale che un evento del genere possa intaccare la patina di tranquillità e di piacevolezza che contraddistingue questa città. E un omicidio non è una bella pubblicità, così la polizia è obbligata a trovare subito l'assassino, a sbattere il mostro in prima pagina per dimostrare che a Miami la sicurezza non è messa in discussione. E così, in una settimana il caso è risolto, perché le indagini si concentrano subito su un giovane di 25 anni circa, quello che avrebbe sparato a Versace. La polizia si convince che si tratta di un serial killer che ha già ucciso 4 persone e che è stato avvistato proprio a Miami. Un certo Andrew Cunanan, un gigolò dalle prestazioni sessuali costose, che ha ucciso quelli che probabilmente erano stati dei suoi clienti o insomma degli amanti. E la notte del 23 luglio successivo Andrew Cunanan viene trovato morto, suicida, in una houseboat, una casa galleggiante ancorata a Miami Beach. La polizia risolve brillantemente il caso, almeno così sembra, sono stati veloci, hanno identificato chi potesse essere l'assassino, un gay legato al mondo della prostituzione di alto livello, forse un amante di Versace, magari è geloso, lo hanno braccato, lui sentendosi perduto ha deciso di farla finita, provvidenziale suicidio. Una storia brutta che viene vissuta come qualcosa di estraneo al mondo meraviglioso dei villeggianti di Miami Beach, qualcosa che a loro non potrebbe mai capitare. Inoltre la polizia è stata così abile che ha risolto tutto in un battibaleno. Miami è protetta, il caso Versace è chiuso. Life goes on without me. E tra quelli che vivono a Miami c'è anche lui, c'è Chicco Forti. Come tutti rimane colpito dalla morte di Versace e anche dai fatti successivi. Tutti parlano di quella nave galleggiante che è rimasta una delle chiavi del mistero, peraltro un mistero risolto con forse, anzi probabilmente, eccessiva semplicità. A questo punto interviene un personaggio chiave, Thomas Knott. Ricordate questo nome perché è fondamentale in tutta la vicenda di Chicco Forti. Questo Thomas Knott è un tedesco, un maestro di tennis, abita anche lui a William Island, è un vicino di casa di Chicco. Parlano del più del meno. Knott rivela a Chicco che un suo carissimo amico è il proprietario della houseboat nella quale è stato rinvenuto il corpo di Cunanan, e gli dice che l'amico è disperato perché nessuno adesso affitterà più la sua casa galleggiante, insomma vuole venderla, anzi vuole svenderla. E Chicco Forti è ricco, fa il filmmaker, è nel settore delle compravendite immobiliari, insomma gli viene facile pensare che potrebbe comprarla lui questa houseboat per farla visitare ai giornalisti, ai curiosi, e insomma vuole fare dei soldi con questa opportunità, e così fa, la compra. E adesso che è proprietario dei diritti d'immagine di una scena del crimine di quella portata, decide di realizzare un documentario inchiesta nel quale mostra la houseboat con tutti gli oggetti, gli arredi, insomma tutto quello che può colpire l'immaginazione di chi è interessato a fatti del genere. Lui è bravo nel suo lavoro e quindi realizza questo documentario inchiesta in collaborazione con una televisione francese e con l'italiana Rai 3. Però questo è l'inizio dei problemi per lui, perché si rende conto che qualcosa non torna assolutamente nella ricostruzione della morte di Cunanan, perché uno che si suicida dovrebbe lasciare sulla scena del crimine, uno che si spara, dovrebbe lasciare una quantità impressionante di sangue. Bene, sul houseboat di sangue non ce n'è e molte cose non tornano. Insomma, è quasi evidente che Cunanan non si è suicidato, o comunque è morto altrove, è stato portato sulla barca già cadavere. E a questo punto è legittimo pensare anche che forse non è neanche l'assassino di Versace. Come mai la polizia scientifica, tra i tanti reperti raccolti, ha trascurato elementi ritenuti di fondamentale importanza, tra i quali una spazzola, un asciugamano, una cuffia di plastica e un colorante, lasciandoli in vista? Non è perlomeno compromettente? Si dice di solito che alla polizia non sfugge neanche un capello. Questo era proprio uno spezzone del documentario Il sorriso della Medusa, dove Chicco Forti comincia a porre interrogativi pesanti, mette in dubbio il buon operato della polizia di Miami, insinua addirittura che il suicidio di Henry Cunanan sia una messa in scena per risolvere velocemente e brillantemente il caso Versace. Tra l'altro Chicco ha fatto ulteriori indagini, ha visionato del materiale riservato della polizia che gli è stato fornito da un detective dietro un compenso economico, un materiale che convince Chicco della sua tesi. Il documentario, che viene prodotto e mandato in onda anche in Italia su Rai 3, non fa molto scalpore da noi, mentre a Miami succede un disastro, perché la polizia viene presa e messa direttamente sotto accusa, viene presa in causa. Ascoltate cosa ha dichiarato proprio recentemente Chicco Forti dal carcere. Quando ho deciso di fare un filmato sulla morte di Versace, quando feci notare che la morte di Cunanan dava spazio a mille interrogazioni, diventai un personaggio scomodo. Non posso condannare tutto il dipartimento della polizia sicuramente, ma io credo che qualcuno all'interno del dipartimento della polizia avesse un interesse per mettere a tacere questa situazione il più presto possibile. Ci sono le cose di cui, per la mia incolumità in questa prigione, forse è meglio di cui non parlo adesso, perché la mia vita qui vale 100-200 dollari. Una persona scomoda può essere eliminata in questa prigione in 5 minuti. Eh sì, lui diventa una spina nel fianco per la polizia di Miami, perché se quello che lui dice fosse vero si parlerebbe di occultamento di prove, creazione di prove false, indagini pilotate, e nel frattempo il corpo di Cunanan viene cremato con una fretta quantomeno sospetta. Insomma, non si possono più fare indagini, tutto viene insabbiato, tutto viene dimenticato. Ma non viene dimenticato lo sgarro che Chicco Forti ha fatto alla polizia, e in particolare c'è chi giura vendetta nei suoi confronti. È la squadra di indagine composta da tre detective: Victoria Plaster, Catherine Carter e Confessor Gonzalez. Tre nomi che sentiremo ancora nel corso di questa terribile vicenda. Il Falco. e il gabbiano. Stiamo raccontando quello che probabilmente è uno dei più grandi errori giudiziari degli ultimi 20-30 anni e direi anche una macchia profonda sulla rispettabilità della giustizia americana, di Miami in particolare. Stiamo raccontando la storia di Chico Forti, l'imprenditore, l'ex campione italiano di vela, l'immobiliarista che viene condannato all'ergastolo per avere ucciso Dale Pike, figlio di Tony Pike, dal quale Chico stava acquistando un hotel. Chico Forti si è sempre dichiarato innocente. Questa vicenda è una vicenda totalmente controversa perché non ci sono prove a suo carico e pesa anche un terribile sospetto legato all'inchiesta che lui stava conducendo a titolo personale sull'assassinio di Gianni Versace. Vi avevo detto di tenere a mente il nome Thomas Knott, era un tedesco, un vicino di casa di Chico Forti, che l'aveva aiutato a comprare la houseboat dove era stato rinvenuto il corpo del presunto, molto presunto, omicida di Gianni Versace. Bene, questo Thomas Knott è in realtà è un truffatore, è stato condannato a 6 anni in Germania, è scappato negli Stati Uniti nel 96, ma Chico si fida di lui, non sa chi è veramente. E Knott organizza da molti anni i suoi affari con un certo Tony Pike, un anziano australiano che vive a Ibiza. Pike possedeva a Ibiza un hotel, il Pikes, che aveva vissuto anni gloriosi intorno agli anni 80 e ci avevano perfino girato un video degli Wham, quello della canzone Club Tropicana. Poi il Pikes Hotel va in rovina, lui lo svende a pezzi a varie società, gli rimane il 5% delle quote, ma questo Chico Forti non lo sa. Scatta la trappola perché Knott invita Pike a Miami, lo presenta a Chico e fa in maniera che il giovane si ingolosisca. Insomma, gli stanno tendendo una trappola, lo stanno truffando. È un albergo bellissimo, ha solo bisogno di una rinfrescata, se vuoi te lo vendo, tu non ci metterai niente a farlo decollare. Forti si dimostra interessato, predispone un atto di compravendita con tanto di cospicua caparra. Siamo alla fine del 98, il gatto e la volpe stanno per spennare il loro pollo. Qualche giorno più tardi Pike rientra in Spagna, telefona a Chico e gli dice che suo figlio sta andando a Miami, vuole conoscerlo perché vuole girare un film con lui e gli chiede se può andare a prenderlo all'aeroporto. Sicuramente si tratta di un'altra truffa. All'aeroporto Dale chiede a Chico di accompagnarlo al ristorante Rusty Pelican dove lo aspettano alcuni amici. I due si salutano nel parcheggio del ristorante, sono stati assieme 45 minuti. La mattina dopo, il 16 febbraio, il corpo senza vita di Dale Pike viene ritrovato da un surfista sulla spiaggia di Seward Beach, poco lontano dal Rusty Pelican. E a questo punto della nostra storia noi abbiamo bisogno d'aiuto e la persona più adatta a darci aiuto è la famosa criminologa Roberta Bruzzone, che si interessa da tempo del caso Chico Forti, ha scritto, si è battuta, si è interessata, insomma è una delle speranze di Chico Forti ed è ovviamente la persona che più cose sa dei fatti. Buongiorno Roberta Bruzzone. Buongiorno a voi. Buongiorno, io sto raccontando questa storia e sono arrivato alla mattina del 16 febbraio al corpo senza vita di Dale Pike che viene ritrovato sulla spiaggia di Miami. Inizialmente si indaga a 360 gradi perché il corpo di Dale Pike viene ritrovato nella zona immediatamente davanti alla spiaggia di Seward Beach, esatto, a Virginia Key, all'interno di un boschetto completamente denudato, prono. Intorno a lui vengono ritrovati praticamente tutta una serie di oggetti che appartengono a lui, tra cui la carta d'imbarco, tutta una serie, insomma, di informazioni che immediatamente ne consentono l'identificazione. Però all'epoca si indagava anche in relazione a un possibile delitto a sfondo sessuale, perché certo, Dale Pike appunto venne ritrovato completamente denudato, sì, in un luogo che normalmente era deputato anche a incontri clandestini, sì, tra coppie omosessuali. Quindi, sì, una volta identificato, insomma, e avuta garanzia che effettivamente si trattasse del Dale Pike, a quel punto si cominciò ad allargare un po' la prospettiva, in considerazione del fatto che Chico Forti era la persona che aveva pagato per lui il biglietto per venire a Miami e che era la persona che avrebbe dovuto andare a prendere all'aeroporto, immediatamente i sospetti si concentrano su Kiko, soprattutto per via di una carta telefonica trovata sulla scena del crimine, in cui tra i tre numeri presenti c'è il numero di Kiko Forti. Quindi immediatamente lui viene attenzionato, però badate bene, lui si presenta spontaneamente alla polizia, sì, perché è in contatto con il detective del caso Cunanan, Gary Schiaffo, che gli dice: guarda, vai immediatamente al dipartimento e di quello che sai. Kiko Forti va là convinto di essere in persona informata sui fatti, ma in realtà è già indagato. Certo. E questa cosa non gli viene assolutamente detta. Quindi lui va là, a fare una serie di affermazioni, gli dicono che è morto anche Tony Pike, circostanza, cioè il padre della vittima, circostanza falsa. Gli dicono che Tony Pike è morto in circostanze assolutamente analoghe al figlio, mentre era a New York, quando anche Kiko era a New York, e chiaramente Kiko si terrorizza davanti a questo tipo di situazione e fa l'unico vero errore in tutta questa vicenda, ossia mente in quella circostanza in relazione al fatto di aver incontrato Dale Pike due giorni prima. Lui nega di averlo incontrato. In quel momento all'inizio. Sì, il giorno dopo va da solo al dipartimento a dire: guardate che io ieri mi sono spaventato e ho mentito su questa circostanza. In realtà sono andato io a prendere Dale Pike, l'ho portato davanti al parcheggio del Rusty Pelican a Virginia Key perché avevo un appuntamento con un amico di Thomas Knott. A questo punto? A questo punto scatta l'indagine sull'hotel, sulla compravendita dell'hotel Pike. Ma gli americani capiscono che il truffato, cioè quello che stava... No, non lo capiscono se non durante il processo, quando le evidenze prodotte dalla difesa, in quel caso, dimostrano che Tony Pike, cioè il padre della vittima, stava cercando di vendere a Kiko, in realtà la compravendita è avvenuta, un hotel che non era più di sua proprietà, perché lui teneva solo il 5% della società e non altro. Per cui in realtà durante il processo emerse benissimo che il truffato in realtà era Kiko Forti, non certo Tony Pike, e di conseguenza Dale non poteva certo rappresentare un problema per Kiko. È possibile che una giustizia come quella americana, che si vanta insomma di essere puntuale, possa fare tutta questa serie di autogol? Non sarebbe certo la prima volta, ragazzi. No, cioè, caspita, è certo. E lui di fatto si era già fatto conoscere dal dipartimento di Miami Beach, coinvolto anche nella vicenda Cunanan e quindi Versace, come spina nel fianco. E questo certo non l'ha aiutato né nei confronti della polizia di Miami Beach né nei confronti della procura. L'ultima domanda, Roberta, secondo te il fatto che, come dire, l'interlocutore siano proprio gli Stati Uniti migliora o peggiora le cose? Cioè, se questo caso fosse successo, che so, in Inghilterra, sarebbe meglio? Guarda, come sistema, diciamo, accusatorio, quello anglosassone e quello americano sono molto simili. Il problema qui è di natura politica prima, cioè, oltre che giudiziaria. Certo. Qui noi, cioè, io ritengo di aver dimostrato in maniera veramente per tabulas, cioè con documenti, atti alla mano, non chiacchiere, che questo processo è stato completamente viziato da una serie di errori macroscopici, sia nel merito che dal punto di vista procedurale. Certo. E quindi, cioè, non ti so dire se fosse successo altrove che tipo di esito avrebbe avuto questa vicenda. Diciamo che il nostro ordinamento, cioè l'ordinamento italiano, è un po' meno esposto a questo tipo di rischi, perché effettivamente noi abbiamo tre gradi di giudizio che sono davvero tre gradi di giudizio. Sì. Lì di fatto tutto si gioca al primo processo, perché gli appelli sono, per modo di dire, durano un quarto d'ora a dirla tutta. Sì. E lì il problema è che sei condannato da una giuria di pari che, essendo non tecnica, non è tenuta a motivare. Quindi di fatto noi non lo sappiamo per quale motivo Kiko Forti è stato condannato. Certo. Roberta Bruzzone, grazie, sei stata preziosissima, e in bocca al lupo per tutto a quello voi. Che fai, grazie. E soprattutto su questa vicenda. Grazie. Grazie a voi. Andiamo avanti col nostro racconto ricordandovi che i detective che hanno indagato sul caso sono Catherine Carter, Confessor Gonzalez e il giudice Victoria Plaster, cioè gli stessi detective del caso Versace. Insomma, la piega che viene presa dalla vicenda è assolutamente assurda, palesemente fuorviata. Il 15 giugno del 2000 Kiko Forti viene condannato all'ergastolo. Ecco la sentenza della giudice. La corte non ha prove che lei, signor Forti, abbia premuto materialmente il grilletto, ma ho la sensazione, al di là di ogni dubbio, che lei sia stato l'istigatore del delitto. I suoi complici non sono stati trovati, ma lo saranno un giorno e seguiranno il suo destino. Portate quest'uomo al penitenziario di Stato. Lo condanno all'ergastolo senza condizionale. Beh, è veramente assurdo, senza prove, solo per la sensazione di un giudice che tra l'altro era stato tirato in ballo da Chico Forti, quindi altro che incompatibilità. Qui si tratta proprio di un giudice palesemente nemico di Chico Forti. Tra le persone che hanno cercato di mobilitare l'opinione pubblica a favore della riapertura del caso, insomma, si sono schierate con Chico Forti, ce n'è una che ha fatto il lavoro più difficile, più assiduo, ed è il nostro amico Red Ronny. Buongiorno Red. Ciao Enrico. Allora, ti aggiorno sulla situazione. Noi abbiamo già sentito Roberta Bruzzone e quindi abbiamo parlato a lungo della casistica, come dire, tecnica, e emerge una verità che è praticamente inconfutabile. Uno che viene condannato dallo stesso giudice sul quale lui svolge un lavoro per l'omicidio Versace è un'incompatibilità scandalosa tra magistrato e imputato. Se a questo aggiungiamo il fatto che se Chico Forti avesse ragione avrebbe diritto a un risarcimento di un centinaio di milioni di dollari e la polizia di Miami farebbe una figura terribile, insomma abbiamo capito quanto è difficile il problema, ed è un problema che tu, che ami le battaglie complicate, hai sposato. Intanto tu hai scritto più volte sul web, Twitter, Facebook, ai potenti italiani e non, insomma raccontaci che cosa hai fatto per Chico Forti. Dunque, la prima volta che si doveva parlare di Chico Forti non avevo programmi televisivi, fui contattato, capii immediatamente che ero innocente, e però avevo, sai, quando scrivi sulla tua pagina Facebook non vai molto oltre. Quando ho iniziato a Roxy Bar TV sono stato contattato dalle leonesse di Chico Forti, delle ragazze che sono prese la causa, e mi hanno segnalato questo caso che io conoscevo già e mi hanno detto guarda, parlane, e ne ho parlato con una che era Roberta Bruzzone, quindi l'ho conosciuta grazie a questa cosa. Roberta mi ha confermato la sua cosa, quindi a questo punto io ho la prima mossa che ho fatto, ho chiamato Fiorello. Gli ho mandato giù i dati, quindi le interviste fatte alla Bruzzone, i documenti. La mattina dopo, con mia grande sorpresa, lui per la prima volta all'inizio, se ti ricordi, lui faceva le cose del mattino, puntando la telecamera, non si inquadrava mai. Per la prima volta ha voltato il telefonino su di sé e ha detto ci metto, voi sapete chi è Chico Forti, e si è sposato per Chico Forti. Da qui ha fatto intervenire Mimoni, il suo amico, da qui abbiamo fatto intervenire Giovanotti che era a Miami, quindi ci siamo mosso prima su quelli che sono personaggi, dopodiché ci siamo mossi con i politici. Purtroppo la più grande delusione io l'ho avuta da Emma Bonino, una persona che ho sempre stimato, eccetera, perché Emma Bonino è venuta alla manifestazione a Milano per Chico Forti. Quando poi dopo lei è diventata addirittura ministro degli esteri, quando è diventata ministro degli esteri non ha mai nominato Chico Forti. Quando ci sono di mezzo gli Stati Uniti si spaventano tutti, eh? Invece l'unico, guarda, ti dirò questo, l'unico che mi ha lasciato un attimo perplesso positivamente è stato Enrico Letta. Devi sapere che Enrico Letta era capo del governo, io ero in macchina, stavo andando in macchina, ho sentito che lui avrebbe incontrato Obama nel pomeriggio, gli ho mandato un messaggio privato su Twitter, lui non mi ha risposto, però dopo la sera ho sentito che aveva parlato con Obama di Chico Forti. Questa per me è stata una cosa molto importante. Il problema è questo, che si deve muovere la politica italiana. La storia di Chico Forti è una storia di un giornalista, peraltro, ma nessun giornalista ne ha preso le difese, tranne Mimun che ha fatto dei servizi e un po' di T2. Cioè, pensate, il problema oggi è che c'è un avvocato, Pacopina, che non sta lavorando molto bene, secondo me. Questo non sta facendo niente. Ce l'ha detto anche Roberta Bruzzone. Lo so. Chiudo chiedendoti le prossime mosse che tu speri e che ipotizzi. Beh, intanto la prima cosa che deve fare Chico Forti è liberarsi di Tacopina, perché lui che ha fiducia in Tacopina. Noi dobbiamo far riaprire il caso. Non è che la polizia di Miami non si sapesse che era, perché la persona coinvolta è già stata condannata per altri casi. Quindi alla fine non è che andiamo contro un integerrimo poliziotto che sta facendo carriera, magari diventando governatore della Florida, no. Andiamo contro uno che è già stato condannato, quindi è già una bella marcia. Dubbia moralità. Red, io ti ringrazio, spero che questa puntata sia un'altra goccia nel mare che stiamo costruendo attorno a Chico Forti. Grazie Red. Falco voli su Chico Forti, anche il gabbiano. Grazie. Ciao. Red. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e poi ci sono storie di battaglie in cui i colpi d'ala vanno dati ancora. È il caso che abbiamo trattato oggi, Chico Forti, una speranza per tutti noi, la speranza che almeno una volta ogni tanto, insomma, la giustizia possa vincere, possa farsi valere. Cadute e risalite, noi aspettiamo Chico Forti in Italia per fare una bella festa. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a cercarmi e a cercarci nei miei social, Twitter, Facebook, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì.